ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Si diede un'occhiata intorno, rabbrividendo, anche se quell'occhiata era per metà curiosa. «Prova a pensare a quali rischi corro», disse a Martin. Morirei per te», erano le parole di Lizzie che risuonavano nelle orecchie di Martin. «E perché non l'hai fatto prima?» Martin le chiese bruscamente. «Quando non avevo un lavoro, quando ero affamato, quando ero proprio ciò che sono ora, un uomo. Un artista, lo stesso Martin Eden. Mi sono posto questa domanda per molti giorni, non solo riguardo a te, ma a tutti. Vedi, io non sono cambiato, anche se questa apparente e improvvisa scoperta del mio valore mi costringe a rassicurarmi frequentemente su questo punto. Le mie ossa sono ricoperte dalla stessa carne, le mie mani e i miei piedi hanno le stesse dita, sono lo stesso di prima. Non ho sviluppato capacità o virtù nuove. Il mio cervello è lo stesso vecchio cervello. Non ho elaborato nessuna nuova teoria in letteratura o in filosofia. Ho le stesse qualità che avevo quando nessuno mi voleva. Oggi, invece, tutti mi vogliono. E questo mi fa impazzire. Indubbiamente non mi vogliono per me stesso, perché sono ancora quella stessa persona che nessuno voleva. E allora mi vogliono per qualcos'altro. Per qualcosa che si trova fuori di me, per qualcosa che non sono io. Vuoi che ti dica qual è quella cosa? È per i riconoscimenti che ho ricevuto. Ma quei riconoscimenti non sono me. Abitano nella mente di altre persone. Un altro motivo è il denaro che ho guadagnato e che sto guadagnando. Ma quel denaro non fa parte di me. Abita nelle banche e nelle tasche di Tom, Dick ed Harry. Ed è per questo, per i riconoscimenti, il denaro, che ora tu mi vuoi? Mi spezzi il cuore, singhiozzò Ruth. Sai che ti amo. Che sono qui perché ti amo. Temo che tu non riesca a vedere il mio punto di vista, lui disse con gentilezza. Ciò che voglio dire è, se tu mi ami, come mai adesso mi ami di più di allora, quando il tuo amore era così debole da rinnegarmi? Dimentica e perdona, gridò Ruth con passione. Io ti ho sempre amato, ricordatelo. E adesso sono qui, tra le tue braccia. Temo di essere un mercante pignolo che scruta la bilancia, che cerca di pesare il tuo amore per scoprire in qual modo stiano davvero le cose. Ruth si sottrasse dall'abbraccio e si sedette diritta, guardando Martin a lungo e interrogativamente. Quando fu sul punto di parlare, si interruppe e cambiò idea. «Vedi, mi sembra che le cose stiano così», continuò Martin. «Quando ero tutto ciò che sono adesso, neppure un'anima si interessava a me al di fuori dei membri della mia classe». Quando avevo già scritto tutte le mie opere, nessuno di coloro che ne avevano letto i manoscritti sembrava interessarsene. Anzi, se vogliamo puntualizzare, parevano interessarsi ancor meno a me, proprio a causa delle cose che avevo scritto. Sembrava quasi che scrivendo quelle cose io avessi commesso un'azione come minimo degradante. Tutti mi dicevano, trovati un lavoro. Ruth cercò di dissentire. Certo, certo, la bloccò Marti. Non nel tuo caso, tu mi dicevi di trovarmi un impiego, un termine così volgare come lavoro e come la maggior parte di quello che ho scritto urta la tua sensibilità. È troppo brutale. Ma ti assicuro che per me era altrettanto brutale sentirmi esortare a trovarmi un lavoro da tutti coloro che conoscevo, come se esortassero una persona immorale a riprendere il giusto cammino. Ma torniamo al punto. La pubblicazione dei miei scritti, l'interesse che hanno suscitato, ha provocato un mutamento nella natura del tuo amore. Martin Eden, che pure aveva già scritto ognuna delle opere, adesso pubblicate, non lo potevi sposare. Il tuo amore per lui non era abbastanza forte da spingerti a sposarlo. Ma adesso il tuo amore è abbastanza forte e io ne posso trarre una sola conclusione. La forza del tuo amore nasce dal fatto che quegli stessi libri siano stati pubblicati e abbiano richiamato l'interesse del pubblico. E nel tuo caso non parlerò dei diritti d'autore che ho incassato, anche se sono certo che abbiano contribuito a far cambiare idea a tuo padre e a tua madre. Inutile aggiungere che nulla di tutto ciò mi lusinga, al contrario, ed è la cosa peggiore. Mi fa mettere in dubbio l'amore, la sacralità dell'amore. Vuol dire che l'amore è qualcosa di così volgare da dover essere nutrito di libri pubblicati e dell'interesse del pubblico. Sembrerebbe di sì. Sono rimasto seduto a pensarci, fino a farmi girare la testa. Povera, povera testa. Ruth allungò un braccio e gli passò le dita tra i capelli, come per consolarlo. Non facciamola girare più. Concediamoci un nuovo inizio. Io ti ho sempre amato. So che sono stata debole quando ho ceduto al volere di mia madre. Non avrei dovuto farlo, eppure ti ho sentito parlare così tante volte con comprensione della fallibilità e della fragilità umana. Concedi quella carità anche a me. Ho sbagliato. Perdonami. Oh, io ti perdono, rispose Martin con impazienza. È facile perdonare quando in realtà non c'è nulla da perdonare. Nulla di quello che hai fatto ha bisogno di essere perdonato. Uno si comporta a secondo dell'orizzonte in cui vive e più di quello non può fare. Allora anch'io dovrei chiederti di perdonarmi per non essermi trovato un lavoro. Le mie intenzioni erano buone, protestò Ruth. E tu lo sai. E non avrebbe potuto essere altrimenti. Visto che ti amavo. È vero, ma grazie alle tue buone intenzioni mi avresti distrutto. È davvero così, proseguì Martin, bloccando sul nascere l'obiezione di Ruth. Avresti distrutto il mio talento e la mia carriera come scrittore. Per natura, io non posso fare a meno di guardare in faccia la realtà, ma lo spirito borghese odia la realtà. La borghesia è codarda. Ha paura della vita, e tutti i tuoi sforzi miravano a questo, a insegnarmi ad avere paura della vita. Mi avresti reso un essere banale. Tutto ciò che c'è in me l'avresti compresso in una nicchia da piccionaia, 5 centimetri per 10 di vita. Una nicchia di vita dove tutti i valori sono irreali, falsi e volgari. Martin la vide agitarsi, offesa. Sì, la volgarità. Una volgarità del cuore, certo, è la base della cultura e dell'educazione borghese. Come ho già detto, tu volevi fare di me un uomo legato alle convenzioni, trasformarmi in un membro della tua stessa classe, con i tuoi ideali di classe, valori di classe e pregiudizi di classe. Martin scosse la testa con tristezza. Neppure ora riesci a capire quello che dico. Per te le mie parole non hanno quel significato che io mi sforzo di dare loro. Le cose che dico ti sembrano fantasie, eppure per me sono la vita, sono la realtà. Nel migliore dei casi ci penserai su un po', divertita dal fatto che questo giovane così rozzo, emerso dal fango dell'abisso, si permetta di giudicare la tua classe e di chiamarla volgare. Ruth appoggiò affaticata la testa sulla spalla di Martin, tremando per la tensione nervosa, e lui tacque per un po', in attesa che lei parlasse. Poi riprese. «E ora? Tu vuoi risvegliare il nostro amore? Vuoi che ci sposiamo? Vuoi me?» «Ma ascolta, se i miei libri non avessero avuto successo, io sarei esattamente identico come sono ora, e tu non saresti venuto a cercarmi. La causa di tutto sono quegli stramaledetti libri!» «Non dire parolacce!» lo interruppe Ruth. E a quel rimprovero Martin ebbe uno scatto. Poi scoppiò in un'amara risata. questo estremo momento, quando la felicità della tua vita intera è in pericolo, o così sembra, tu hai la stessa paura della vita che avevi in passato, paura della vita e di una sana parolaccia. Ruth fu colpita dalle parole di Martin e capì quanto il suo rimprovero fosse stato puerile. Eppure, anche in quel momento, la ragazza non poteva impedirsi di sentire che Martin aveva sgarbatamente ingigantito il suo errore e, di conseguenza, di portargli rancore. Sedettero in silenzio per molto tempo, lei disperatamente intenta a pensare, mentre lui rifletteva sull'amore che una volta aveva provato e che adesso era svanito. Adesso Martin sapeva di non aver mai amato Ruth. Si era innamorato di un'immagine idealizzata di Ruth, una creatura eterea plasmata da lui, lo spirito vivace e luminoso delle sue poesie d'amore. La Ruth reale, borghese, con tutti i suoi difetti borghesi e con le insormontabili pastoie mentali della psicologia borghese, quella Ruth, Martin non l'aveva mai amata. All'improvviso, la ragazza iniziò a parlare. «So che molto di quello che hai detto è vero. Ho avuto paura della vita. Non ti ho amato nel modo giusto, ma ho imparato ad amare meglio. Io ti amo per quello che sei, per quello che eri. Amo anche il modo in cui sei cambiato. Ti amo per ciò che ti rende differente da quello che tu chiami la mia classe, per le tue convinzioni, anche se io non le capisco, ma so che prima o poi potrei arrivare a capire. Mi dedicherò a questo, a imparare a capirle. Persino le tue sigarette e le tue bestemmie sono parte di te e io ti amerò anche per questo. Posso ancora imparare, no? Ho imparato molto negli ultimi 10 minuti. Che io abbia osato venire qui è una prova di quello che ho già imparato. Oh, Marty! Ruth piangeva, stringendosi a lui. Per la prima volta, da quando era arrivata, Marty la abbracciò con gentilezza e comprensione e lei ricambiò quell'abbraccio con uno sguardo luminoso, accoccolandosi contro di lui con vivacità. «È troppo tardi», disse Martin. Si ricordava delle parole di Lizzie. «Sono un uomo malato. Oh, non nel corpo. Si tratta della mia anima, del mio cervello. Sembra che non mi importi più nulla, che nulla abbia più valore per me». E se tu ti fossi comportata così solo pochi mesi fa, sarebbe stato diverso, ma adesso è troppo tardi. Non è troppo tardi, gridò Ruth. Te lo dimostrerò. Ti proverò che il mio amore è cresciuto, che per me è più importante della mia classe, di tutto ciò che mi è più caro. Ripudierò tutto ciò che è più caro alla borghesia. Non ho più paura della vita. La lascerò, mio padre e mia madre. Non mi importa se diventerò la favola della mia cerchia di amicizie. Verrò con te, qui. E ora, senza sposarci, se tu vuoi, e sarò orgogliosa e felice di stare con te. Se ho tradito l'amore, ora, nel nome dell'amore, tradirò tutto ciò che mi spinse a compiere quel primo tradimento. Ruth era in piedi davanti a Martin, con gli occhi sfavillanti. «Sto aspettando, Martin», sussurrò. «Aspetto che tu accetti la mia offerta». «Guardami!» «È davvero splendido», lui pensò guardandola. Ruth aveva compensato tutte le sue mancanze. Infine si era rialzata come una vera donna, superiore persino alla regola aurea delle convenzioni borghesi. Era qualcosa di splendido, di magnifico, di disperato. Eppure, cosa c'era che non andava in lui? Ciò che Ruth aveva fatto non lo aveva eccitato né commosso. Era una cosa splendida e magnifica, ma lui l'apprezzava solo a livello intellettuale. In quello che avrebbe dovuto essere un momento di infuocata passione, Martin giudicava Ruth con lucidità. Il suo cuore era rimasto insensibile. non provava alcun desiderio per lei. Di nuovo si ricordò le parole di Lizzie. «Sono malato, molto malato», disse Martin con un gesto di disperazione. «Quanto malato? L'ho scoperto soltanto adesso. Qualcosa in me è morto. Io non ho mai avuto paura della vita, e neppure nei miei sogni avrei immaginato di poter diventare sazio della vita. Non provo più alcun desiderio. Se ne potessi provare almeno uno, vorrei te, e ti vorrei in questo momento. Vedi quanto sono malato?» Martin appoggiò la testa alla poltrona e chiuse gli occhi. Come un bambino che piange e si dimentica dei suoi crucci guardando la luce del sole filtrare attraverso la pellicola delle lacrime, così Martin dimenticò la sua malattia, la presenza di Ruth e ogni cosa, guardando quella massa di vegetazione attraversata dai raggi di un sole ardente prendere forma e dardeggiare sullo sfondo delle palpebre. Ma non era affatto rilassante il verde di quel fogliame. La luce del sole era troppo dura, troppo brillante. Gli faceva male guardarla, eppure la guardava, e non sapeva perché. Martin fu richiamato alla realtà dal rumore della maniglia. Ruth era sulla porta. «E come farà a uscire di qui?» si chiedeva la ragazza con gli occhi pieni di lacrime. «Ho paura.» «Ah, scusami», gridò Martin, balzando in piedi. «Non sono in me.» «Lo sai, mi sono dimenticato che eri qui.» Si portò una mano alla testa. «Vedi, non sono tutto a posto. Ti accompagnerò a casa, possiamo uscire dall'ingresso di servizio, nessuno ci vedrà. Tira giù la veletta e non ci saranno problemi.» Ruth si avvinghiò al braccio di Martin mentre percorreva il corridoio poco illuminato e una stretta scala. «Non corro più pericoli adesso», disse a Martin quando emersero sul marciapiede, iniziando a disserrare le mani per lasciargli libero il braccio. No, ti accompagno a casa», lui le rispose. «No, non occorre che tu lo faccia», obiettò lei. «Non è necessario». E di nuovo Ruth fece per lasciargli il braccio. Martin si sentì incuriosito. Ora che non correva più alcun pericolo, Ruth era spaventata. Sembrava non vedesse l'ora di lasciarlo. Lui non riusciva a capirne il motivo e attribuì quello strano atteggiamento alla tensione nervosa. Così le impedì di lasciargli il braccio e si avviò con lei a fianco. A metà dell'isolato, Martin vide ritrarsi in un portone un uomo che indossava un lungo soprabito. Mentre vi passavano davanti, Martin lanciò un'occhiata e, nonostante l'uomo avesse il bavero rialzato, fu certo di aver riconosciuto il fratello di Ruth, Norman. Durante il cammino, Ruth e Martin parlarono poco. Lei era come intontita, lui era abulico. A un certo punto le disse che sarebbe andato via verso i mari del sud e lei, un po' di tempo dopo, gli chiese di perdonarla per essere venuta da lui. E questo fu tutto. Sulla porta di casa si separarono in modo formale, si strinsero la mano e si augurarono la buonanotte. Lui sollevò il cappello e poi la porta fu chiusa. E Martin si accese una sigaretta e tornò indietro verso il suo hotel. Quando passò davanti al portone in cui aveva visto Norman nascondersi, si fermò, fissandolo pensieroso. «Ha mentito», disse ad alta voce. «Mi ha fatto credere di aver affrontato grandi rischi per me. E nel frattempo suo fratello, che l'aveva portata qui, la stava aspettando per riaccompagnarla a casa.» Martin scoppiò a ridere. «Oh, questi borghesi! Quando non avevo un soldo, non stava bene che io mi facessi vedere insieme a sua sorella. Adesso che ho un conto in banca, è lui stesso a portarla da me.» girava sui talloni per riprendere la strada, un barbone, che andava in quella stessa direzione, gli chiese l'elemosina e sentì queste parole provenire da dietro le sue spalle. «Dica, signore, non può mica darmi un quarto di dollaro per dormire al coperto?» Ma ciò che spinse Martin a girarsi fu la voce. L'istante successivo si ritrovò a tenere tra le sue la mano di Joe, il suo vecchio amico della lavanderia. «Ti ricordi quando ci siamo salutati a Lot Springs?» gli stava dicendo l'altro. «Ti ho detto che ci saremmo incontrati di nuovo. Me lo sentivo nelle ossa, ed eccoci qui. Oh, hai un ottimo aspetto», gli disse Martin, osservandolo, «e sei ingrassato». «Sicuro», Joe aveva un'espressione beata, «non ho mai saputo cosa vuol dir vivere fino a quando non mi sono dato al vagabondaggio. Ah, sono ingrassato di 15 chili e mi sento sempre bene. Oh, all'epoca ero ridotto per le ossa dal lavoro. Fare il vagabondo mi si adatta proprio». «Però sei alla ricerca di un posto dove andare a dormire», lo provocò Martin, «ed è una notte fredda. In cerca di un letto?» Joe si ficcò una mano in tasca e la estrasse piena di monetine. «Meglio che speculare in borsa», disse esultante. «È che sembravi il tipo giusto. Ecco perché ti ho puntato». Martin rise e la diede vinta all'amico. «Hai parecchie belle sbronze lì», insinuò Martin. Joe fece scivolare di nuovo in tasca le sue monetine. «Non più», annunciò. «Niente giri per me, anche se non c'era mica un motivo per smettere. Solo non avevo più voglia. Da quando ci siamo visti l'ultima volta ho preso una sola sbronza ed è stato un incidente. Ho bevuto a stomaco vuoto». «Quando lavoravo come una bestia, bevevo come una bestia. Da quando vivo come un uomo, bevo come un uomo. Un bicchiere ogni tanto, quando ne ho voglia, e basta». Si accordarono per incontrarsi di nuovo il giorno dopo, e poi Martin rientrò all'hotel. Si fermò nell'ufficio segreteria per vedere se c'erano delle navi in partenza. La Mariposa, una grande nave a vapore, partiva 5 giorni più tardi. «Può telefonare domani mattina e prenotarmi una cabina di prima classe?» chiese all'impiegato. «Non sul ponte, ma in basso, a babordo, sul lato sinistro. Se lo ricordi, sul lato sinistro. È meglio che se lo scriva». Una volta nella sua stanza, Martin si mise a letto e scivolò nel sonno dolcemente come un bambino. I fatti accaduti quella sera non lo avevano impressionato. Nulla sembrava più in grado di impressionare la sua mente. Il calore che aveva provato incontrando Joe si era dimostrato fuggevole. Dopo pochi minuti, Martin era già infastidito dalla presenza dell'ex lavandaio e dall'obbligo della conversazione. Neppure l'aver fissato la partenza per i suoi amati mari del sud di lì a 5 giorni significava qualcosa per lui. E così Martin chiuse gli occhi e dormì tranquillo e rilassato per 8 ore, senza interruzioni. Non era irrequieto, non cambiò posizione e non sognò. Il sonno era diventato per lui il momento dell'oblio, e ogni giorno, quando si svegliava, si sentiva dispiaciuto. La vita lo angosciava, lo tediava, e le lunghe ore da riempire erano un incubo. «Ascolta, Joe», fu il benvenuto con il quale, la mattina dopo, Martin accolse il suo vecchio compagno di lavoro. «C'è un francese sulla 28ª strada. Ha fatto i soldi e se ne torna in Francia. Ha una piccola lavanderia, in perfetto stato e con parecchi macchinari. Potrebbe essere un inizio, se hai voglia di sistemarti. Ecco, prendi questi. Comprati qualche vestito e fatti trovare nell'ufficio di quest'uomo alle 10. Questo tipo ha dato un'occhiata alla lavanderia per conto mio e ti ci porterà a fare un giro. Se ti piace e pensi che il prezzo sia giusto, $12,000, fammelo sapere ed è tua. Adesso corri, ho da fare. Ci vediamo più tardi». «Ora ascoltami, Bart», disse l'altro lentamente, scaldandosi per la rabbia questa mattina. Sono venuto qui per vederti, hai capito? Non sono venuto qui per avere nessuna lavanderia. Sono venuto qui per parlare con un vecchio amico. E tu mi appioppi una lavanderia. Sai che cosa puoi fare? Puoi prenderti la tua lavanderia e andartene all'inferno. Stava per lanciarsi fuori dalla porta quando Martin lo afferrò per le spalle e lo fece ruotare su se stesso. Adesso ascoltami tu, Joe, disse Martin. Se ti comporti così, ti darò una botta in testa e proprio perché sei un vecchio amico te la darò più forte, capito? Joe nel frattempo aveva abbracciato Martin per impedirgli di colpire e nel tentativo di liberarsi dalla stretta dell'altro tentava di buttarlo a terra, divincolandosi. Piroettarono per la stanza l'uno tra le braccia dell'altro e crollarono con fracasso su una sedia di vimini, mandandola in pezzi. Joe rimase sotto, con le braccia spalancate e un ginocchio di Martin sul petto. Quando Martin lo liberò, ansava disperatamente, in cerca di aria. «Adesso facciamo due chiacchiere», disse Martin. «Sai che non puoi farcela con me. Per prima cosa voglio che sia concluso l'affare della lavanderia. Poi tornerai qui e ci faremo una bella chiacchierata tra amici, in nome dei vecchi tempi. Guarda lì. Non ti ho forse detto che avevo da fare?» Un cameriere era entrato proprio in quel momento, portando la posta del mattino, un'enorme massa di lettere e giornali. «Come posso farmi largo tra tutta quella roba e parlare con te? Vattene. Sistema l'affare della lavanderia e poi ci faremo compagnia.» «Va bene. Pensavo che ti volevi liberare di me, ma ho sbagliato. Però, Mart, in un vero combattimento, non riusciresti a battermi. Non puoi sfuggire al mio allungo.» «Una volta o l'altra ci metteremo i guantoni e vedremo», gli rispose Martin sorridendo. «Certo, non appena sistemo quella lavanderia.» Joe tese un braccio. Lo vedi questo allungo? Te ne farò assaggiare un po'. Martin sospirò di sollievo quando la porta si chiuse alle spalle del lavandaio. Stava diventando un vero misantropo. Ogni giorno trovava più difficile essere cortese con le persone. La loro sola presenza lo infastidiva e dover conversare lo irritava. Lo rendevano inquieto e se incontrava qualcuno, dopo pochi secondi era già alla ricerca di qualche scusa per andarsene. Martin non attaccò l'ammasso di posta. Per mezz'ora se ne stette abbandonato nella poltrona senza fare nulla, mentre di tanto in tanto qualche pensiero vago e informe filtrava attraverso la sua intelligenza, o piuttosto quei pensieri stessi erano la sua intelligenza che ad ampi intervalli baluginava nel vuoto. Martin si riscosse e iniziò a scorrere la posta. C'erano una dozzina di richieste di autografi, ormai le riconosceva a vista. Poi c'erano le lettere dei questuanti di professione e alcune lettere speditegli da vari individui un po' strani. Andavano da uno che sosteneva di aver inventato un modello funzionante di moto perpetuo a un altro che era riuscito a dimostrare come la superficie della Terra fosse l'interno di una sfera cava, fino ad un tipo che cercava un aiuto economico per comprare la penisola della California meridionale e instaurarvi una colonia comunista. C'erano poi le lettere delle donne che desideravano conoscerlo. Una di queste lo fece sorridere. Vi era acclusa la ricevuta dell'affitto di una panca in chiesa, evidentemente inviata come prova di buona fede e rispettabilità. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it